magia dell'amore. Sei tu. Il tuo sguardo è così dolce che mi batte il cuore. Magia dell'amore. Sei tu. Sei tu. Sei tu. Il mio cuore forte, wow, wow, come febbre che mi fa desiderare l'amore. Tu sei come uno scherzo del destino e ti adoro così forte. Sei l'amore, l'amore. Magia dell'amore.